Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Ed eccoci al secondo tema di questa settimana, una vicenda un po' contorta da spiegare, però un caso abbastanza frequente. Ben trovato al presidente dell'Adico, Carlo Garofolini. Ciao Carlo. Ciao Mirko, sono anche tutti gli ascoltatori. Dunque, vicenda che tocca, che ha toccato una persona, ma è un caso che si è ripetuto e si può ripetere. Una persona ha comprato, o meglio, pensava di comprare un computer, in realtà poi si è, ha scoperto di aver firmato un'altra cosa. Sì, infatti è una vicenda, come hai detto te, molto curiosa, che si è verificata su una catena molto importante, nota come è stata in questo caso PC City e Unieuro, al quale una persona negli anni 2006 si è recata, come ha detto, a comprare un computer con una stampante per effetto di una promozione che gli era arrivata a casa o che aveva letto durante l'occasionalità in cui stava transitando in questo negozio. E nell'occasione in cui lui ha sottoscritto questo finanziamento, che lui teneva convinto fosse un finanziamento al quale, attratto da una vantaggiosa offerta che era quella esattamente di 90 euro al mese per 24 mesi, se specificando che l'episodio si risale al 2006, poi si è trovato successivamente la mala sorpresa. E la mala sorpresa di aver sottoscritto invece, cioè di non aver comprato realmente un computer con tutti gli accessori, ma... La mala sorpresa, come hai detto te, è che arriviamo nel 2013, dove il signore, il nostro socio che si è rivolto all'Adico, praticamente lamenta e ci ha portato la documentazione che qualche giorno fa ha ricevuto, e questo è stato verificato anche dai nostri uffici, una convocazione a Novara per una mediazione al quale questa società gli chiede sostanzialmente la restituzione dei beni acquistati come computer e stampante e il pagamento di 4.000 euro derivati da quello che è stato praticamente un bene che secondo loro lui se ne è appropriato in questi anni e al quale invece avrebbe dovuto restituire ai termini del pagamento di 2 anni per effetto di un contratto che non era un finanziamento ma era un contratto di leasing. Quindi non aveva effettivamente la proprietà di questo bene, ma sostanzialmente l'aveva pagato in affitto, tradotto in modo più semplice, no? Sì, quello che contestiamo noi come Adico per mezzo del nostro ufficio legale, sulla base della documentazione che abbiamo e sulla base delle dichiarazioni che ha anche firmato il nostro socio, è che il nostro socio era convinto ed era tranquillo di aver sottoscritto un finanziamento. In realtà è vero che nel contratto le clausole scritte chiaramente in maniera sempre molto molto piccola e confuse in mezzo a tante altre non si riferivano a un contratto di finanziamento, ma lui nella buona fede del commesso del venditore che lo aveva corteggiato, diciamo, su questo affare che lui teneva tale, ha deciso di aderire. Certo è che pagare per 2 anni, e la persona ha sempre pagato regolarmente le 24 rate, e trovarci oggi nel 2013 e la persona, oltre a pagare 4.000 euro, oltre a restituire bene, doveva andare a Novara per una mediazione che già un ufficio legale della società ha pensato bene di attivarsi, riteniamo una cosa alquanto incredibile, per non trovare altri termini un po' più incresciosi, perché certamente anche a nostro avviso la persona è rimasta aggirata su quella che è stata un po' la bontà di un affare che riteneva aver fatto. Certamente in questo caso la legge purtroppo non è molto di aiuto alla persona, perché è titolare di partita IVA e certamente non è purtroppo anche qui da dire è coperto da quello che è il codice consumo, che prevederebbe in questo caso maggiori tutele in quanto il contratto sottoscritto non è certamente è certamente impugnabile per effetto che non è quello che una persona qualsiasi avrebbe potuto richiedere. Il fatto di avere la partita IVA insomma non lo ha facilitato, lo ha un po' inguaiato, ma la situazione poi alla fine si è risolta? La situazione è dunque che noi comunque innanzitutto contestiamo subito tutta la vicenda sui motivi che appunto la persona sostanzialmente è stata raggirata. Il contratto, al di là di quello che c'è scritto, non è certamente chiaro nei modi e nella forma e nelle diciture con cui questa cosa è stata riportata. Poi, siccome il signore non è un caso unico, ma come il signore ci sono moltissime altre persone, è chiaro che in questo caso la vicenda assume un connotato completamente diverso a sostegno appunto del caso specifico. Certamente il consiglio che dobbiamo dare nell'occasione di oggi è quello di dire alle persone state molto attenti, perché l'ennesima truffa che qualcuno è rimasto vittima questa volta, lo è rimasto perché ha creduto nella bontà di un'offerta tratta da quella che era una potenziale rata vantaggiosa. In realtà poi nella fiducia, come molte persone, quasi tutti fanno, del venditore o del negoziante, non ha letto quelle che erano le clausole. Purtroppo dobbiamo sempre tenere presente che la cosa più importante, al di là appunto dell'impressione che ci può dare il venditore, è quello di leggere tutte le condizioni che i contratti recano. E non firmare se non si è assolutamente sicuri. Questo è l'ulteriore consiglio che aggiungiamo anche noi. Vicenda dunque complessa, ma alla fine risolta, e speriamo serva di esempio anche ad altri. Grazie all'Adico, al presidente Carlo Garofolini. Settimana prossima altri due argomenti. Grazie a te, Nico. Un saluto a tutti gli ascoltatori. Ci sentiamo la settimana prossima. Diritti e rovesci. In collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Per riascoltare questo programma, vai su bluradioveneto.it.